Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko a Luca Romagnoli, membro dei management, che è in collegamento telefonico con noi e a cui appunto rinnovo il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao Luca, ciao. Buon pomeriggio. Ciao a tutti. Lo scorso 10 giugno è uscito l'ultimo vostro album, Ansia Capitale. Vorrei chiederti, Luca, di raccontarci qualcosa rispetto a questo ultimo album, insomma, come nasce questo lavoro. Abbiamo cercato di, come sempre, insomma, di fare un misto tra sonorità nostre e qualcosa anche a livello di internazionale che ci piace molto, qualcosa dei gruppi, dei nostri magari anche gruppi preferiti, che ci fanno spesso anche da ispirazione, che però come sempre rimarranno segreti. E niente, per quanto riguarda poi le tematiche, il titolo del disco, siccome è un disco scritto nel periodo che tutti conosciamo e che non voglio nominare, diciamo è stato forte il sentimento, insomma, dell'ansia, della solitudine, che poi credo in generale sia diventata un po' lo stato d'animo di molti, forse troppi giovani, in generale tutti. E quindi niente, da lì nasce e su quei sentimenti si sviluppa, e su quelle robe lì abbiamo cercato appunto di inserire parole e sonorità. Album che esce a distanza di 10 anni dal vostro debutto con AUF, ti chiedo come sono cambiati i management in questi anni e quanto ha influito il percorso artistico di questo periodo nella pubblicazione di questo nuovo album. Allora, sono successe un po' di cose strane negli ultimi anni, ripeto, no, non le voglio nominare, sono nomi e parole che non voglio che escano più dalla mia, anche dalla bocca delle persone che parlano con me. Quindi questo periodo strano ha un po' cambiato tutte le carte in tavola, perché in realtà ci sentiamo molto più maturi, siamo cresciuti ovviamente, sono passati tanti anni, però essendo rimasti fermi per cause non imputabili a noi stessi per troppi anni, avevamo così tanta voglia di suonare che poi in realtà quando ci siamo ripresentati ai live abbiamo sviluppato dei sentimenti molto anche giovanilistici, no? Perché avevamo proprio tanta tanta tanta voglia di suonare, quindi stiamo ritornando sui palchi proprio come agli inizi, con una forza, con un'urgenza che un po' avevamo dimenticato, perché col passare degli anni è normale, ma avevamo proprio bisogno e urgenza di dire cose importanti e di urlarle in faccia alla gente. Quindi ecco, siamo cresciuti, ma in realtà ci siamo ritrovati in questi live forse anche troppo giovani. Live che riprendono, ripartono, è appena iniziato il vostro tour che vi vedrà il 3 novembre sul palco del Locomotive Club qui a Bologna. Che cosa dobbiamo aspettarci da questa serata e anche un po' dal ritorno nei live? Stiamo facendo un bel po' di casino perché ci vogliamo proprio sfogare. Il Locomotive è un bellissimo locale dove già siamo stati spesso, dove tra l'altro è una cosa molto importante e non è comune in tutti i locali italiani, c'è una bellissima acustica sia sul palco che fuori. Quindi ecco, quando poi i concerti si sentono anche bene è tutta un'altra cosa. E quindi niente, di solito ci siamo sempre divertiti tanto e credo anche il pubblico, quindi credo che sarà una bella serata. Adesso non sono scaramantico, ma vabbè, facciamo gli scongiuri. E intanto vi invitiamo anche tutte e tutti appunto alla data del 3 novembre qui sì. A Bologna. Luca, io ti ringrazio. Grazie a te, grazie mille. Volevo solo dire che a Bologna, salvo problemi che ormai bisogna sempre metterli in conto, ci saranno anche Niccolò Carnesi e Cimini con noi, perché abbiamo scritto una canzone assieme e la presenteremo per la prima volta al Locomotive.